Job e Gianluca, probabilmente. No, no, ovviamente loro no, però posso dire solo quello che, per esempio, se guardiamo l'esperienza del movimento Notav, cioè, e che purtroppo, non purtroppo, perché così non si fanno formalmente queste cose, cioè, l'esperienza del movimento Notav era per esempio che è uscito dopo il 2005, in quel momento con una vittoria, sulla scorta di quella cosa venne fondata questa cosa del patto di mutuo soccorso, no? Che raccoglieva, in una delle interviste del libro, Maurizio Piccioni, che lui citava, per esempio era uno della Valle che si era proprio messo a totale disposizione di questo progetto qua, però poi lui fa anche un bilancio terribilmente realistico e negativo di quell'esperienza lì, da quello che ne posso giudicare io, anche sentendo la sua storia, perché lui ci si era proprio impegnato, perché poi quella storia che in Valsusa è successa purtroppo non è successa quasi da nessun'altra parte, o dove è successo dei processi simili sono stati sconfitti velocemente, perché poi ci sono anche, voglio dire, delle mille ragioni, no? La Valle ha avuto anche la fortuna di potersi costituire nel tempo un movimento che ha che è arrivato preparato in momenti decisivi, no? Ci sono stati altri territori in Italia che iniziavano e sono stati stroncati abbastanza sul nascere, altre situazioni, però per quella che è stata l'esperienza del patto di mutuo soccorso, il giudizio che se ne dà abbastanza è che non ha funzionato, perché poi in molte altre situazioni lì c'è anche una responsabilità, Maurizio secondo me lo dice molto bene, delle parti più politiche, ma più politiche non per forza istituzionali, anche di movimenti, di centri sociali, di non aver, come dire, tirato, lasciato spazio. Lì le ragioni poi ognuno può fare le sue, però devo, cioè, non lo so, non credo che sono cose che formalmente possiamo dire, ah, certo. Bisogna che si innescano dei livelli di attivazione, di partecipazione. Poi io personalmente propendo perché ci siano forme di auto-organizzazione nei movimenti, ma non è che sono ostile a priori se un sindaco, voglio dire, in Valsusa i sindaci, anche perché costretti dal movimento, si sono comportati in un certo modo. Questo io non conosco benissimo, però la sua storia sicuramente no. Però cioè che bisogna costituirle nei luoghi, questa cosa qua, perché sennò diventano sempre delle robe che vengono fissate da ceti politici, che però se poi non gli corrisponde una dinamica reale. Si può prescindere dalla territorializzazione, se dobbiamo usare una parola, del radicamento sul luogo. No, infatti, cioè, altrimenti è il classico coordinamento di intenti che finisce. Come è stata quella storia lì? Purtroppo, perché senso, era partita, cioè, con delle cose molto... Non si può prescindere dal lavoro che tu fai qui, in territorio. Poi, se lo fai bene, riesci a non cadere in dinamiche in cui, diciamo, possiamo essere noi tutti responsabili di voler dirigere il movimento, voler troppo segnare una linea, piuttosto che fare certi tipi di accordi che poi si scappano di mano, piuttosto che se lavori bene questa cosa cresce e dopo si aprono tutte le altre possibilità. Ma è chiaro che se io voglio fare un patto di mutuo soccorso con la Valle, cioè o sono in Valle e partecipo a quel movimento lì, o se sono qui devo avere, cioè non basta la buona volontà, no? Devo anche avere, che ne so, succede qualcosa, blocco la linea per Mortara, no? Però vuol dire che posso farlo, che ho lavorato qua.